und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Ich nehme Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trage ich den kleinen Prinz im Sinn, ein König, oh, eine Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann, jedem Mann, meine Haut gehört den Herrn. Mann, das Ehemann, gleich und gleich gesellt sich ein Mann gegen Mann. Ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann. Gleich und gleich gesellt sich ein. Ich bin die Ecke aller Räume. Ich bin der Schatten aller Bäume. In meiner Kette fehlt kein Glied, wenn die Lust von hinten zieht. Mein Geschlecht schimpft mich Verräter, ich bin der Albtraum aller Väter. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Mann gegen Mann, doch friert mein Herz an manchen Tagen. Mann gegen Mann, kalte Zungen niederschlagen. Grandi, grandi, questo era il DFD in diretta qui su Radio San Donato 102. Avete appena sentito la frequenza. Avete appena sentito gli idioti per caso. Esatto. Volevamo scusarci, ma abbiamo dovuto fare la pausa cicchetta. Beh, sì, sì, insomma, quando ci vuole, insomma, sai, dai. Per ammazzare la noia. O per ammazzare Diego anche, si potrebbe. Sì, per ammazzarci, ma no, non è che siamo a favore del tabacco, no? Che noi fumiamo per voi. Fumate. No, dai, poveri. No, non come i messaggi subliminali che mettono i cartoni animati, no? Tu vedi tante cose, poi a un certo punto... Fumate. Esatto. No, non vi incitiamo a fumare. No, fumate. No. Fumate. No. Fumate, fumo. Allora, diamo anche ai nostri amici a casa i nostri contatti, visto che siamo tornati dalla cicchettina. Dai, avanti, su. Allora, dai. Oh, allora, yeah. Visto che siamo tornati, innanzitutto una spiegazione, un'illustrazione, un illuminamento. Allora, voi vi siete resi conto che, contrariamente alla vecchia stagione di DFD, Team 370, di Fazione Divertita, non sentite le rubriche, giusto? Vi siete chiesti come mai non ci sono le rubriche? Perché ci siamo rotti. No, i nostri cari amici, ecco, i nostri cari amici Nonna Fregolina, Don Diego, Tony Angela e quant'altri di FD Viaggiare in Fornati, eccetera, eccetera, ritorneranno sicuramente, ma oggi abbiamo deciso di fare una puntata casual, cioè a caso. Bello questo silenzio. Bello questo effettino, me lo devi insegnare. Sì. Basta mandare indietro il CD. Il CD. Basta scricciare un po'. Dai, Dennis, dai, dai i contatti. Diamo dai, i contatti, dai, ragazzi. Noi siamo di FDT. Questa è sempre 360, l'information divertita. E questa radio Sandonà, la frequenza 102.200. Il numero di telefono 0421-560993 e il 4 finale per il fax. Ci potete ascoltare in web radio su www.radiosandonasenzaaccento.it. E naturalmente per tutte le fanciulle, come al solito, 348-4162-771-771. Facebook di FD Team 360 in parole. Yes. E per rompere i coglioni via mail potete mandarla al dfd360@. Yahoo.it. Ma che è successo di là? Che ne faccio? Bella sta basetta anni 80. Ti piace? Sì, sì. E mo ascoltate questa, va. Ascoltate questa. Un uomo è rimasto incastrato nel water mentre cercava di raggiungere il cellulare caduto per errore nel gabinetto. Questa è la dinamica. Quando il telefonino è squillato, scivolando nel WC, il malcapitato ha cercato di afferrarlo avvolgendolo nel braccio in un giornale che poi si è espanso e a contatto con l'acqua bloccandogli il braccio nelle tubature. È impossibile, dai, scusa. L'unico errore dello sfortunato, studente della Technology and Business University di Chongqing, allora Cina, non si sa. Non avevano risposto al telefono non curante del luogo in cui si trovava. Un saluto agli amici cinesi, mi raccomando, piantatela di imitare. Mi hao a tutti quanti. C'è anche un bellissimo video, se volete andare a vederlo, nelle notizie pazze, le notizie più assurde della rete. Cioè c'è il video col cinese incastrato nel cesso. Esatto, forte. L'hanno anche ripreso, chissà come avrà fatto. Che belli a spazzola, faceva anche da scopino. È vero. Un saluto allo scopino sempre. No, un saluto ai nostri amici della Cina. Soprattutto un saluto a Diego, il nostro caro amico Scopone. Lo Scopone scientifico, lui, però. Esatto. Grazie. Scopone è emozionato. Adesso, no, comunque, adesso sputa. Adesso. Questa è notizia dell'ultima ora. Questa sì, esatto. E come sapete, noi siamo sempre aggiornatissimi per quanto riguarda le news. Sì, anche perché quest'anno abbiamo internet. Riusciamo, esatto, addirittura a vedere i vostri messaggi che ci mandate via Facebook. Esatto. E quindi in diretta, incostantemente in contatto con voi riusciremo ad esaurire tutti i vostri desideri e soprattutto riusciremo ad esaurire tutte le vostre menti. Esattamente. Comunque dicevo, 360, come dice anche il nome del programma, l'informazione divertita, è importante parlare di informazione e quindi diamo una notizia arrivata nella nostra redazione. Qui abbiamo circa 100 tra segretari e giornalisti che si occupano di redare le notizie. ed è la notizia, insomma, abbiamo saputo che è stato commesso un omicidio da parte di uno studente di Sarajevo, ed è stato ucciso il principe di... Ma che cazzo dici? Il principe di Belarus? Quello dell'impero austro-ungarico. Ah, beh, vero. È appena scoppiata la guerra lì. Siamo nel 1914. Non siamo nel 1914. Sì, giustissimo. Siamo nel 1914. Sì. Come vedete, la nostra redazione è aggiornata. Esatto. Aggiornatissima. Dai, giusto. Comunque, prego, tutti dice sì. Scusate, voi volete parlare delle cose che succedono attualmente? Infatti, non fanno grinta. Anche perché, principalmente, le cose che succedono oggi le sentono tutti per televisione, da tutti i media, da internet, da tutta la radio. Ma noi cos'è che facciamo invece? Vi diamo le notizie o di un passato molto remoto, o addirittura vi diamo notizie del futuro. Sì. esattamente. Quindi tu che cosa ti ricordavi del 7 novembre del 1914? Ma guarda, io mi ricordo, ero lì, mi ricordo, stavo bevendo ero appena versato del tè dal mio samovar e niente, ho udito degli spari, ho detto: "Oh, boh, ma che cazzo succede qua? Ma che cazzo mi sto bevendo il tè?" Scusate ragazzi, c'è l'ultima notizia qui che sta scaricando. Hanno preso la Bastiglia. Ma staranno meglio. Cos'è il 16 luglio? Per fortuna che non ha sentito la battuta luglio. Mia. Ma no, non ho sentito, la ripeti? No, non no, ho, dai, ho dai, ma vergogna. Meglio così, va, dai, basta così. Non mi ha detto ha preso la Bastiglia, ho detto: "Ma stanno meglio adesso." Dai. Alla presa della Bastiglia. Basta così. Mi è passato. Sì. Avanti. Radio Sanorà 102-200. Mi ricorda una cosa questa canzone, presto. Funny Strip. Una notizia alquanto strana. Eh sì. Un minuto per riflettere. Chi è che hai fatto tu? Bellissimo. Chi è stato? No, scusate, era un momento serio. Esatto. Allora, raccogliamoci. Stefano, per cortesia, declamaci pure la notizia dei signori. Beh, è una notizia alquanto strana e alquanto bizzarra. Molto bizzarra. La piccola Maki Ihegbor è uno dei misteri più grandi che la genetica abbia mai affrontato. Nata da genitori di pelle nera e discendenza nigeriana da intere generazioni, Maki, che significa bellezza di Dio, non è albina, è alta ben 44 centimetri, nata da Ben e nata da Angela, lui di 44 e lei di 35 anni. Direi Ben. Ben, ma soprattutto direi Magingbor. Eh sì. La coppia ha avuto un parto, una coppia nera, un parto di una bambina bianca. Adesso io, allora, lì parlano di genetica. Io direi che ho un corno grande come un palazzo. Non è giusto fare così. Ma scusa, non è allora, giusto. È mancanza di rispetto. No, ragazzi, c'è una spiegazione scientifica. La coppia, che è molto credente, esclude categoricamente l'ipotesi di un tradimento, e d'altronde nemmeno la scienza è in grado di dare una spiegazione plausibile, dato che sia Ben che Angela non hanno una storia di etnia mista nel loro DNA. E siamo pienamente convinti di quello che hanno detto. Però io inviterei tutto il pubblico, tutti i radioascoltatori, a 10 secondi di silenzio e riflettere. Sono cose che alla fine hanno portato una conoscenza interiore e soprattutto una fondamentale Guarda, parte del... per me quella si è presa un bel omino bianco, no, quello per lavare, cazzo, pubblicità occulta, no si è presa un tizio bianco e ha detto: aspetta che qua mi vado a fare una bella... insomma, allora dai, avanti, è stufa dei randelloni, perché nell'addio al nubilato si sa succedono cose succedono cose abbastanza incredibili. È una cosa in mano. Cornuto. Sedam noći kad se poveže, hajde zovi me noćas u tri. Insomnija, ja više ne spavam ni iskopija. Zovi me noćas u pet. Insomnija i pijenja. Hajde dođi taj, neće taja da zataji. Biće tebi posle taje, bit će vuj i baj. Kad te ja umorim, kad te ja prezvojim. I zato dođi da ti ja svašta radim. Radim što ti prija i bit će lako noć i zonija. Bellissimo il pezzo, un pezzo servo. I nostri grandi amici, anzi volevo approfittare del momento per ringraziarli per averci fatto godere quella partita Italia-Serbia. Grazie. Avevamo questa canzone in serbo per voi. Eccolo là, sapevo che avevi la battutina del cazzo. Sapevo, eccolo là, solito. Ma dai, l'ho pensata per tutta la durata della canzone. La durata? L'ho tenuta in testa perché se no me la sarei dimenticata. Comunque ringraziamo Ivan il terribile, ringraziamo anche e soprattutto perché ridi? Grazie, no. Ivan, ciao. Sei simpatico, ma vattene a casa tua. No, dai, perché questa qua è una notizia nuova, no, non è nuova. Cosa? Comunque, Ivan il Terribile è detenuto in questo momento, no? Qui sì. In Italia, a quanto pare 2 anni, in un carcere femminile. Beato lui. Perché, no, ma è vera questa roba. Sì, è verissima. Sì, è vero. Perché se la mettevano in quello maschile, ci sono gli albanesi che lo aspettano. Perché, ah, sì? Ah, beh, sì, è vero, perché avevano un po'. Beh, beato lui che comunque in un carcere femminile. Ne avrà sicuramente da soddisfare. Arrestateci, Ivan. Arrestateci. Vabbè. Ivan il Terribile. Ivan the Terrible. Cos'è sta roba? È una canzone dedicata a lui. Dedicata a lui. Ivan, ti dedichiamo questa... Nei tuoi momenti romantici nelle quattro mura della galera. ove tu risiedi e guardando attraverso le sbarre la tua amata, canterai con amore e armonia questa amore canzone. Tra amore ed armonia. Già ti vedo nei tuoi momenti intimi. Sì, sì. Da no, solo. Romanticone mio. Immaginatevi sto uomo forzuto da solo che questa si fa bestia di... che si fa i suoi desideri. I suoi giochini. Via. Via. Per te. After all that we've been through, I will make it up to you. I'll promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Che spacchi dei dei. No, perché no, il bello è che avendo il dominio di questi tre pulsantini, io potrei alzare il volume nel momento in cui no, i miei cari amici Diego e Danny si cimentano nel canto. No, mi sporgo e ti vedo. Però non riesco mai a mantenere una faccia tranquilla perché mi viene da ridere, e quindi purtroppo vengo sgammato ogni volta. Vabbè, e quindi cose che eccoli qua. Eccolo qua. Vabbè, dai, comunque c'era Diego che voleva dire una cosa importantissima adesso, giusto? Sì. Che cosa volevi dire, Diego? Importantissima. Sì, dimmi pure. Diego, questi vuoti di memoria. Aspetta che ci penso. No, è bello prendere anche questo Diego in contropiede in questa puntata della scioltezza, appunto cosa... perché prendere Diego in contropiede... Prendere Diego contropiede fa molto il calcio, sì, da rigore, cioè proprio. Potremmo anche prenderlo a calci in culo. Beh, quello è la cosa. Ho tante cose importanti da dire. 84 gatti. La vita è bella. Vabbè, ma potresti anche magari raccontarci la fiaba di Cappuccetto Rosso. No, ci siamo messi d'accordo su quello che doveva dire Diego, e lui si è dimenticato tutto. Il momento è triste per tutti noi, ma volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini nei momenti più duri. Beh, questo è un bel discorso quello che ha fatto Diego, soprattutto perché Diego non ha mai avuto momenti duri, ma i momenti duri li ha fatti passare lui agli altri. Esatto. Quindi io c'ho solo alcuni momenti duri. Eccolo. Passiamo pure avanti con un'altra canzone. Usando un gesto apotropaico, ora darò fuoco a Diego. Scusate, ma il gesto apotropaico è veramente... Sì, sì. No, questa... Tienila la registrazione. Sì, no, ma vero, apotroiamoci tutti quanti. Ma non è apotroiare. Cioè, apotroiare da qualche altra. Apotroiati da qualche altra. Ma sei una potroia. Diamo i nostri contatti anche perché siamo arrivati a 23:38, ragazzi. Come arrivati alla fine così? Sì, no, non sono le 23:28. Noi abbiamo 26 minuti di puntata. Quindi... Scusate un attimo. 23:28, giusto? 23:28. È la nuova ora. Io sono avanti, ragazzi. Armore 28. Direi. Cosa splendida. I nuovi mostri. Quindi ci avete sentito, onde per cui sopportato tutta la sera, no? Mi fanno male le mascelle a suon di ridere. Dai, noi prima siamo io qui i contatti. Ok, dai. Allora, chi siamo noi? Chi i siamo contatti noi? Diego, chi siamo intanto noi? Intanto non siamo nessuno. Qui gli SMS si mandano al 348 41 62 771. È chiaro? Okay. Yes, Facebook DFD Team 360. In parola, sì, in parola. Mail DFD 360 chiocciola Avevi no, aspetta un attimo, devi dirle lui. No, non c'è più tempo, ragazzi. Okay. Ora di andare via. Non c'è più tempo. No, dai, ripetilo bene, dai. Radio San Donato 102200 0421 560993 il quattro finale per il fax www.radiosandona.it. Scappa, scappa, scappa, è ora di finire. Andiamo, andiamo, la prossima settimana. Ciao ragazzi a tutti quanti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, devo andare. Ciao. Athlete Tourist. Oh, al palo, papà. We don't go. Game over.